Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Eccoci qua di nuovo con la nostra rubrica Crowd Me Up, crowdfunding, le storie di finanziamento dal basso. Noi lo sappiamo, ci sono due anime, una seria che cerca finanziamenti per progetti molto importanti, un'altra più ironica, più ludica, dove a volte si gioca anche un po'. Oggi ve le presentiamo tutte e due, un progetto serio e un progetto più divertente. Allora, cominciamo intanto a presentare i nostri giurati che ci danno una mano per vagliare i due progetti di oggi. Claudio da Cuneo, buongiorno Claudio. Buongiorno, ben ritrovato. Lorenzo da Milano. Sì, buongiorno. E poi, forse abbiamo anche il terzo giurato? No, ne abbiamo due per ora, per stamattina. Allora, cari giurati, mantenete la concentrazione. Presentiamo il primo progetto, vai. Allora, il primo progetto si chiama Urbit. Si tratta di della prima app per smartwatch in grado di monitorare il battito cardiaco e di chiamare autonomamente i soccorsi quando qualche cosa non va. Quando l'app rileva quindi un'anomalia, chiede all'utente se va tutto bene. In caso di assenza di battito o di risposta, chiama i soccorsi e fornisce anche ai soccorritori la esatta posizione del paziente e l'anomalia rilevata. E per completare lo sviluppo di questa applicazione, gli ideatori hanno lanciato questa campagna di crowdfunding per raccogliere 6.000 euro. Ce ne parla Stefano Cipolla, uno degli ideatori di Urbit. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao. Buongiorno. Stefano, allora ti diamo un minuto, poco più, per convincere i nostri ascoltatori ad investire in questo progetto. Vai Stefano. Buongiorno a tutti. Come vi hanno anticipato, oggi voglio parlarvi di Urbit. Urbit, come detto, è un'applicazione che fa un compito semplice ma fondamentale: monitora il nostro cuore e ci dice quando qualcosa non va. Non solo, grazie ai sensori installati all'interno dello smartwatch, Urbit si accorge quando il nostro cuore si è fermato e in quel caso chiama da sola, autonomamente, i soccorsi, dicendo dove ci troviamo e cosa ci è successo. Quindi, in sostanza, Urbit cosa fa? Chiama aiuto quando noi non lo possiamo fare. Questo permette di velocizzare l'intervento dei soccorsi e quando si tratta di cuore sappiamo tutti che essere veloci nell'intervento è fondamentale, può fare la differenza. Urbit però può essere utilizzato anche in altri casi di minore emergenza, può fornire, essere infatti uno strumento utile ad un cardiologo per fornire dati in continuo, in tempo reale rispetto ai suoi pazienti senza l'utilizzo di dispositivi invasivi o fastidiosi. Abbiamo già realizzato una versione di questa applicazione che copre il 60% delle funzionalità. Okay. Con Appela, sì. Speriamo di andare oltre. È esaurito il tuo tempo a disposizione, Stefano. Benissimo, mi sembra. Però è giunta una cosa che in effetti non ci avevo pensato, che in pratica è come se funzionasse un po' da Eco Doppler, quello che ti mettono per monitorarti per 24 ore di fila, giusto? Sì, cioè indossato può effettivamente continuare a fornire dati, anche perché tutti i dati verranno poi caricati su una pagina web personale accessibile all'utente e al dottore, al medico. Certo. Quindi lui momento per momento può controllare com'è la situazione del paziente. Senti Stefano, quali ricompense avete pensato per chi decide di contribuire a questo progetto con un piccolo investimento? Certo, allora chiaramente l'oggetto principale è l'applicazione, quindi in tutti gli step di contributo abbiamo inserito una o più versioni dell'applicazione. Poi abbiamo pensato di realizzare degli oggetti commemorativi, quali una tazza, una maglietta, oppure una chiavetta USB a forma ovviamente di cuore. Perfetto. Beh, insomma, sostanzialmente però immagino insomma l'interesse per questa app si avrà la possibilità di averla gratuitamente, perché naturalmente poi come ogni app c'è o molte app sarà a pagamento. Allora adesso vi presentiamo, cari giurati, rimanete concentrati, anzi nel frattempo vi presento anche il terzo giurato che ci ha raggiunto, Paolo da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi raccomando, Paolo, stai lì bello concentrato. E presentiamo il secondo progetto. Si chiama Siculit ed è il primo gioco da tavolo incentrato. Qua abbiamo cambiato completamente registro. È un gioco da tavolo incentrato sulla storia e sulle eccellenze siciliane. Si gioca in sei, interpretando i principali invasori nella storia della Sicilia, quindi greci, romani, arabi, normanni, svevi e spagnoli. L'obiettivo è aggiudicarsi i prodotti tipici della cucina siciliana. E il gioco è stato ideato da tre ragazzi che vorrebbero raccogliere 10.000 euro per realizzare le prime 1.000 copie del gioco e distribuirle nei negozi. Ce ne parla Carlotta Costanzo. Ciao Carlotta, buongiorno. Ciao a tutti. Eccola qua, che è una delle ideatrici di questo progetto. Anche a te, un minuto, poco più, per raccontare perché gli ascoltatori dovrebbero investire in questo progetto, Carlotta. Grazie. Piculip è il gioco da tavola che rende la cucina siciliana a portata di gioco. E si tratta, come ti ho già detto, di un gioco strategico in cui l'obiettivo è quello di conquistare i prodotti del territorio siciliano per realizzare dei menù che sono un po' particolari. E tutto è nato in una serata estiva a Palermo con gli amici in cui passavo il tempo a giocare a risico e a mangiare cannoli. E da lì è partita l'idea di realizzare un gioco che fosse ambientato in Sicilia e che avesse sia una forte componente di design ma anche culturale. E quindi per esempio le carte prodotto contengono degli aneddoti culturali sulla storia dei cibi siciliani e dall'altro lato i giocatori rappresentano alcune delle popolazioni che hanno conquistato la Sicilia in passato. Siculit da lì si è presto trasformato in un progetto di imprenditoria tutta femminile al quale lavoro con due mie amiche, Costanza Livigni e Costanza Caminita. E la prima è la designer e la seconda si occupa delle relazioni pubbliche e delle vendite. E questo gioco è importante dire che non si rivolge solamente ai siciliani, ma anche ai cultori dei giochi strategici della Sicilia, certo. E ovviamente del buon cibo tradizionale. Hai sentito il gong? Il gong. È bellissimo, quindi praticamente è il risico dei cannoli questo. Esattamente. Ma questo è un progetto che dovrebbe essere finanziato dalla Regione Sicilia, perché assolutamente è un fatto di marketing anche della vostra terra. Comunque, avete delle ricompense in mente, regalare il gioco forse o che cos'altro a chi investirà nel progetto Siculit? Sì, pensiamo che Siculit sia l'ideale regalo di Natale, per cui speriamo che se le persone possono contribuire con 30 euro riceveranno il gioco dentro Natale. Perfetto, e quindi è una bella occasione anche per fare un regalo di Natale diverso, esatto, dal solito, anche perché questo qui per ora non è ancora in distribuzione, questo gioco. Allora, amici ascoltatori e amici giurati, quale dei due progetti vi ha convinto di più? Anche se uno naturalmente si presenta come molto più serio e l'altro più ludico. Paolo da Torino, buongiorno. Di nuovo. Sì, sarà che ho un papà che è cardiopatico, quindi sì, ho un'attenzione particolare per questi aspetti e per queste applicazioni, con tutto rispetto e migliori auguri alle ragazze siciliane che hanno inventato questo gioco. Bravo, ma il fair play. Mi è piaciuto questo tocco di fair play, quindi sei più per il progetto Your Beat. Benissimo, andiamo con il motivo l'hai spiegato, andiamo con Claudio da Cuneo, anche tu sì. Claudio. Sì, allora io vorrei aiutare le ragazze per il gioco da tavolo, anche per dare la possibilità ad alcune persone, ai giovani soprattutto, ad avvicinarsi più ai giochi di ruolo, ai giochi di società. Che sono belli, sono sempre belli, vero? Regalano sempre soddisfazioni quando uno inizia a giocarci. Poi per tanto tempo magari li teniamo lì nascosti nell'angolo. Poi capita che qualcuno gli viene l'idea di fare un gioco da tavolo. Sotto Natale, bello, di solito. Bello, che bello. Va bene, Claudio. Siamo 1-1. Siamo 1-1, è interessante. Lorenzo da Milano. Ecco, come fare la cosa sì. Allora, sì, sì. Avere un bel regalo sotto l'albero a Natale che si avvicina è senz'altro piacevole, però penso che sia meglio riuscire ad arrivare al Natale e quindi vivi, e quindi, cioè riuscire ad arrivare, esatto, problemi di salute, poter vedere questo Natale e i prossimi, quindi io sono per il primo dei due progetti. Ah, benissimo, benissimo. Allora, tanto ricordiamo che entrambi i progetti continueranno e proseguiranno. Non è che è una giuria che deve decidere quale progetto far proseguire e quale no. Quindi rimangono tutti e due. Però vince il progetto Your Beat. Per 2-1. Noi ringraziamo sia Stefano Cipolla di Your Beat, ma anche Carlotta Costanzo di Siculit. Sono anche in rima questi due progetti di oggi e vi ricordiamo che potete trovare informazioni su questi due progetti sulla piattaforma di Apple ma anche sul sito di Radio 24 nella sezione di Si può fare. Con il crowdfunding ci risentiamo la settimana prossima, noi invece andiamo avanti. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding in collaborazione con Apple.